5A. Ascolta e rispondi. Hai capito? Sì, ho capito. Hai finito? Sì, ho finito. Hai dormito? Sì, ho dormito. Hai pulito? Sì, ho pulito. Hai spedito? Sì, ho spedito. Hai sentito? Sì, ho sentito. Hai chiarito? Sì, ho chiarito.